Franziska zu Reventlow. A Schwabing, il quartiere di Monaco dove praticanti dell'arte, della vita alternativa e del libero amore vissero gomito a gomito uno dei periodi storici più ricchi di brio e di nuove idee, abitarono centinaia di donne e uomini che attraverso l'arte, la letteratura o la semplice libertà di costumi dichiaravano la propria dissociazione dal sistema capitalista consumista patriarcale. Tra le interessanti donne che vissero a Schwabing per dei periodi ci furono la pittrice Marianne von Werefkin, la scrittrice Frida von Richthofen e Franziska zu Reventlow, spiantata aristocratica che eccelleva nella pratica di vivere al di sopra dei suoi mezzi e di indebitarsi con chiunque fosse così sprovveduto da prestarle denaro che lei poi non restituiva. La contessa Franziska zu Reventlow, Fanny come veniva chiamata da bambina, nacque nel 1871 in una nobile famiglia della Germania settentrionale, dai costumi tradizionali e dalla rigida etichetta. La sua natura ribelle le impedì di seguire la strada prevista per una fanciulla del suo rango, sposare un nobile e passare noiosamente la vita nell'alta società tedesca. Riuscì invece a essere espulsa dal collegio e si unì a un gruppo di giovani ribelli che predicavano la libertà e il rifiuto delle convenzioni. Appena maggiorenne scappò di casa, ebbe numerose relazioni e si trasferì appunto a Schwabing, dove si ingegnava a tirare avanti poiché la sua famiglia l'aveva ripudiata e le aveva tagliato i viveri. Non riuscì mai a rinunciare al suo desiderio di libertà e indipendenza, nonostante queste scelte la mantenessero costantemente in uno stato di semipovertà, ma non perse mai il suo humor e l'ottimismo, non si lamentava e riusciva a ironizzare costantemente sulla sua situazione. La sua bandiera fu l'amore libero e la scelta di essere madre single di un bambino avuto a 26 anni, di cui non svelò mai la paternità. Amò teneramente il suo figlioletto e se ne prese cura da sola come poté. Lo tenne fuori sia dal sistema scolastico patriarcale, istruendolo lei stessa, sia più tardi dal servizio di leva. Franziska credeva in una sorta di relazione simbiotica madre-figlio, l'unico legame umano stabile che lei accettò. A 31 anni aveva pubblicato il romanzo autobiografico Helen Holstein, in cui descriveva la sua infanzia e giovinezza tra l'educazione repressiva da una parte e la sua insaziabile fame di vita dall'altra. A 39 anni la sua situazione finanziaria era diventata talmente grave da costringerla a lasciare Schwabing per Ascona, dove accettò un finto matrimonio che avrebbe dovuto garantire l'eredità al marito che, secondo i patti, l'avrebbe poi condivisa con lei. Era il 1910 e Franziska trovò alloggio al Monte Verità, dove si imbucò fingendosi malata di nervi perché non aveva un altro luogo che la accogliesse a credito, in attesa della fantomatica eredità. Con il figlioletto si trasferì nella Torre degli Uccellatori, al Monte Verità, l'unica di cui si poteva permettere l'affitto. Del Monte Verità la nostra scuola si è già occupata, troverete il link in descrizione. Lì scrisse il suo libro più conosciuto, Il complesso del denaro, nel quale analizza con irresistibile vena umoristica e autoironica la sua ossessione primaria, quella per il denaro appunto, e la trasforma in ossessione universale dalla quale, secondo lei, ogni essere umano sarebbe afflitto. Esilarante il fatto che, per giustificare la sua presenza nella casa di cura monteveritiana, fu costretta a inventarsi psicosi che non aveva e a condividere, lei che amava il lusso e la stravaganza, la morigerata vita dei montiveritiani. Attraverso l'espediente letterario dell'epistolario a un'amica, Franziska zu Reventlow racconta con lucidità e umorismo la sua permanenza al Monte Verità e come non ereditò la fortuna che aspettava e come gli altri pazienti che la circondavano le apparissero tutti guaribili, più che con qualche nuova pratica psicoanalitica, con semplici somministrazioni di denaro. Sebbene da un certo momento in poi si sia guadagnata da vivere con la scrittura, Franziska non riconobbe mai il suo talento come qualcosa di più di un modo per sbarcare il lunario. A 41 anni, ispirandosi alle lettere della francese Ninon de l'Enclos, che già nel XVII secolo scelse di vivere con la stessa libertà di un uomo, Francisca aveva scritto Piccoli amori da Paul a Pedro, dove raccontava come alcuni uomini volessero salvarla, altri sposarla, ma come lei non ci cascasse mai, li desiderava tutti senza complicazioni, volendo collezionare esperienze e amarne più di uno per volta. Offrendoci il quadro lucido, ironico e disincantato delle pretese maschili di possesso, monogamia e fedeltà. In Piccoli Amori sosteneva che le donne dovessero essere liberate dalla soggezione al desiderio maschile e dovessero invertire il ruolo, prendendosi esse stesse tutti gli amanti che desideravano. Pubblicando su argomenti tabù come il desiderio erotico delle donne, la maternità single e la sua difficile esperienza di bimba in un sistema educativo gerarchico, Francisca, pur non occupandosi direttamente di questioni politiche, suffragiste o femministe, di fatto contribuì a politicizzare argomenti che fino a quel momento erano appartenuti solo alla sfera privata. Considerava il matrimonio tradizionale come una forma di prostituzione legale. Ci risulta inspiegabile perché una donna così intelligente e colta sia stata tanto accanita nel difendere i diritti sessuali, femminili e non quelli legati alla loro indipendenza economica. La sua ribellione era personale, non collegata a quella collettiva del crescente movimento delle donne. La sua critica sociale era dettata dai suoi bisogni individuali piuttosto che da un vero coinvolgimento cosciente nel sociale. Tuttavia, sono state sicuramente pionieristiche le sue scelte, specialmente riguardo all'allevare il figlio da sola secondo ciò che lei riteneva giusto. Scrisse: "Voglio e devo diventare libera un giorno. Profondamente radicato nella mia natura è questo desiderio incontrollabile di libertà. Il più piccolo vincolo che altri potrebbero non percepire pesa su di me in modo insopportabile e devo impegnarmi in una battaglia contro tutte le restrizioni. Mi sono sentita così per tutta la vita. Non devo liberarmi, non devo salvare il mio io interiore. So che morirò se non lo faccio." Grazie al cielo, la morale cristiana della nostra società è diventata fondamentalmente obsoleta negli ultimi decenni. Il movimento della modernità ha insegnato alle giovani generazioni un po' di quella coraggiosa allegria del paganesimo. Abbiamo iniziato a sgretolare le vecchie tavolette delle leggi. 2 anni dopo la pubblicazione di Il complesso del denaro, a soli 47 anni, Francisca lasciò il corpo in seguito a complicazioni dovute a un incidente in bicicletta, o almeno così dice la sua biografia ufficiale, anche se è possibile che la vita sregolata, la mancanza di denaro e di pasti regolari e l'allegro approccio a una sessualità libera ma senza precauzioni avessero potuto indebolire il suo corpo. La scuola delle donne è lieta di proporvi Il complesso del denaro di Franziska zu Reifenthal, traduzione di Renata Colorni, Adelphi Editore. Da Devana, buon ascolto.